Pisa 24, i gialli della storia. È l'inizio di uno dei misteri più custoditi d'Italia, un giallo che inizia il 27 ottobre del 62, quando l'aereo India Alfa Papa non risponde più. È precipitato nella campagna di Bascapè. In quel disastro muoiono il presidente dell'ENI Enrico Mattei, il giornalista inglese William Mackall, il pilota Irnerio Bertuzzi. Ma che cosa è successo su quell'aereo? Si è trattato di un incidente o di un sabotaggio? Insomma, un giallo, un grande mistero italiano. Oggi a Mix 24 racconteremo la storia di Enrico Mattei, le sue lotte, le sue speranze, la storia di un uomo protagonista nel bene e nel male dello sviluppo energetico del nostro paese durante la ricostruzione. Sentiamo lo stesso Mattei che racconta qual è il clima che domina la corsa al petrolio in quel periodo. Una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. In un rapporto segreto del National Security Council del 1961 si legge: la politica petrolifera italiana, dominata da Mattei, ha sferrato attacchi alle maggiori compagnie petrolifere occidentali e alla loro struttura internazionale dei prezzi, con un impatto distruttivo nei rapporti tra le compagnie stesse e i governi del Medio Oriente e ovunque. Le tattiche di Mattei hanno inoltre alimentato, specialmente in Africa, sentimenti anticolonialisti. In questo documento ci sono tutti gli elementi che fanno del caso Mattei un vero giallo. La politica petrolifera, gli interessi economici delle multinazionali, i servizi segreti, il colonialismo e la realtà africana di quegli anni. Ma chi era Enrico Mattei? Mattei, dopo un'adolescenza nella quale ha cominciato facendo l'operaio, a metà degli anni 30 è già un industriale di successo, al punto che, finita la guerra, viene nominato commissario straordinario dell'AGIP, con l'incarico di liquidare l'azienda e cedere tutto ai privati. Ma la sua idea è un'altra. È convinto che per la ricostruzione le fonti energetiche sono strategiche e fondamentali, e allora riprende ricerca, perforazioni, arrivando a costruire un metanodotto e affrontando difficoltà burocratiche, economiche e politiche. Lo scontro sull'AGIP è appunto politico e verte sulla legittimità dell'intervento pubblico nei settori produttivi strategici. Naturalmente tutta la grande finanza italiana guidata da Giorgio Valerio, presidente dell'Edison, è contro di lui. Ascoltiamo lo stesso Mattei e il senatore Luigi Granelli. Ma quando arrivammo al primo pozzo produttivo di Caviaga e il metano uscì fluente, veramente rivelando una grande ricchezza al paese, nello spazio di circa un mese furono presentate circa 300 domande di concessione che coprivano tre volte tutta la Valle Padana, e fu anche allora come una leggendaria, ripetendo proprio una leggendaria, corsa all'oro, cioè una corsa per l'accaparramento delle concessioni nella Valle Padana. Aveva una grande idea, che non si poteva sviluppare l'economia italiana fuori dall'autarchia senza acquisire un minimo di indipendenza internazionale in materia energetica. E questo fu il suo cruccio, Vanoni lo sostenne molto, da lì nacque l'idea dell'ENI, che non fu così semplice, perché Ivan Matteo Lombardo, lo stesso Rodolfo Morandi furono contrari a questa idea che sembrava un po' avveniristica. De Gasperi era perplesso su pressione delle grandi multinazionali e anche del governo americano, ma alla fine, quando Vanoni convince con Mattei De Gasperi ad andare a Corte Maggiore a fare la visita al primo pozzo di petrolio, anche De Gasperi si convince e nasce l'ENI. Nel 1953, dopo un dibattito parlamentare durissimo, viene approvata la legge costitutiva dell'ENI, che ha l'esclusiva della ricerca nella Valle Padana. Mattei ha l'appoggio di Vanoni e di De Gasperi e ha dalla sua parte anche Giovanni Marcora, che ha fondato la Base, una corrente che raccoglie una buona parte della sinistra democristiana. Con Leni diversifica e innova e naturalmente gli attacchi contro Mattei si moltiplicano, finanziati dai petrolieri americani e dalla grande finanza. Ma Mattei va avanti, costruisce la prima centrale nucleare, produce concimi azotati a prezzi inferiori di quelli della Montecatini, crea una moderna rete di distribuzione per la benzina Super Corte Maggiore, crea occupazione nel Mezzogiorno e sostiene la linea per un riscatto del Sud, come racconta lui stesso. Noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. L'attività di Mattei non si ferma all'Italia e quindi si reca nei paesi ex coloniali che vogliono affrancarsi dal dominio del cartello del petrolio. Il primo accordo lo firma con lo Scià in Iran, ma poi va in Marocco, in Libia, in Sudan, in Tunisia, in Nigeria, in Egitto. A tutti offre condizioni vantaggiosissime e inoltre si occupa della formazione dei tecnici che dovranno gestire gli impianti che l'ENI sta costruendo in quei paesi. Mattei, insomma, è diventato un problema serio, al punto che il suo nome appare nei rapporti della CIA che finiscono sul tavolo del presidente degli Stati Uniti. In un rapporto della CIA del 1958 su Mattei si legge: i suoi amici, notoriamente il presidente Grunchi e il premier Fanfani, sono ora al governo. Il ruolo di Mattei nella politica interna ed estera è diventato ancora più preminente che negli anni del dopoguerra. Egli è nella posizione di esercitare un'influenza spesso decisiva nella formazione del governo e nella politica economica. Io l'anno scorso, nel mese di dicembre, fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi, uno dei più grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste compagnie, a Monte Carlo, dove mi chiamò. Tutta la collaborazione riguardava l'Italia, tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Io devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi: ma in Italia, dico, sa, io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Mi disse: che cosa vuol fare in Tunisia? Ma dico: in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice: voi non farete la raffineria. Dice: perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E gli dissi, molto umilmente gli chiesi: cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facesse in tre? Dice: no. E allora io, a questo momento, tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere, lo guardai, li cancellai e gli dissi: io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita. Nell'autunno del 60 Mattei firma un importante accordo con l'Unione Sovietica per l'acquisto di greggio. Le reazioni sono violente, la stampa statunitense lo definisce traditore perché mette a rischio la NATO e la sicurezza del mondo occidentale. Così racconta quel clamoroso accordo Giuseppe Ratti, ex dirigente dell'ENI. L'accordo prevedeva l'acquisto da parte dell'ENI di un quantitativo molto considerevole di petrolio, che allora copriva quindi una quota non inferiore al 25% del fabbisogno dell'ENI in quel momento. Il prezzo fu eccellente, si staccò decisamente dai prezzi che venivano praticati allora dalle compagnie del cartello. Un altro scenario in cui si muove Enrico Mattei è l'Algeria. tra il governo francese e i gruppi per la liberazione dell'Algeria appaiono i terroristi francesi dell'OAS, un gruppo armato che è contro i sostenitori dell'indipendenza e che organizza parecchi attentati con l'uso del plastico. In questa situazione Mattei si schiera con il popolo algerino, pensando di poter trattare con un'Algeria indipendente per il petrolio del Sahara. È il 28 luglio, riceve una lettera proveniente dalla Spagna, è una condanna a morte firmata dall'OAS e sarà pubblicata da tutti i giornali. L'OAS, di cui avete certamente sentito parlare in Algeria e di cui conoscete i mezzi per sopprimere i disturbatori con gli attentati al plastico, ha il piacere di portare a conoscenza le decisioni che vi riguardano e che sono state prese in una riunione segreta a Parigi. Sono considerati come ostaggi e condannati a morte il commendatore Enrico Mattei e tutti i membri della sua famiglia. Ad ogni modo, questa decisione verrà messa in atto solo se dopo questo avvertimento il signor Mattei continuerà nelle sue attività nefaste per la Francia e i suoi alleati. Uno dei nostri emissari parte per Roma per mettere a punto la modalità della nostra decisione, nel caso che continuiate con le vostre attività sovversive. Sabotato l'aviogetto dell'ENI, titola Il Giorno. È il 10 gennaio 1962. Rinvenuto un cacciavite in uno dei due reattori. L'ingegner Mattei doveva raggiungere il presidente del Consiglio Fanfani in visita ufficiale in Marocco. Il comunicato dell'ENI sottolinea che un corpo estraneo ha danneggiato il reattore e avrebbe potuto provocare un'esplosione. Mattei rinuncia al viaggio. Il 26 ottobre Mattei vola in Sicilia, deve essere a Galliano per assicurare tutti che lì ci sarà lavoro, grazie al metano. Il 27 ottobre alle 16.55 l'aereo parte per Milano. Tra quanto tempo prevede l'atterraggio? Passo? Tra un minuto e mezzo. Dell'aereo nella notte del 27 ottobre ha trasformato quello che fino a quel momento era il problema Mattei nel caso Mattei, un mistero a due interrogativi: incidente o sabotaggio? E allora ritorniamo direttamente a quella notte, al rogo di lamiere che illuminò la campagna intorno a Milano all'improvviso. La notizia del disastro si diffonde rapidamente, le sedi ENI di Milano e Roma si riempiono di gente, l'ingegnere Giovanni Trolli della SNAM viene incaricato di recarsi sul luogo. C'erano alcune fotoelettriche che illuminavano e lì iniziammo subito la raccolta dei resti anatomici di tutte le persone, raccogliendo e mettendo questi pezzi anatomici sia nelle federe sia in questi grossi lenzuoli che avevamo portato da San Donato Milanese. Il 19 marzo del 63, il secolo XX, un nuovo settimanale diretto da Giorgio Pisanò titola Enrico Mattei è stato assassinato. Nell'articolo a firma di Fulvio Bellini si sostiene che l'aereo è esploso in volo e che i mandanti sono le compagnie petrolifere, che i sicari sono dell'OAS, l'organizzazione terrorista francese guidata da un ufficiale in divisa della polizia, e che alcuni dirigenti dell'ENI nascondono molte cose. Ma l'inchiesta passa inosservata. Italo Mattei, da sempre convinto che il fratello sia stato assassinato, il 24 settembre del 63 sporge denuncia contro ignoti per l'omicidio plurimo. Ma nel 66 il giudice chiude la questione perché i fatti non sussistono e che la presenza di uomini estranei all'aeroporto di Catania è stata esclusa dalle deposizioni dei brigadieri, che non hanno notato niente di anormale intorno al velivolo. E così cala il silenzio su tutta la storia. Ma nella primavera del 70 Fulvio Bellini e Alessandro Previti pubblicano un libro a loro spese sul caso Mattei. E il libro suscita l'interesse di Francesco Rosi, che sta lavorando a un film sul caso Mattei. Il caso Mattei è uno dei famosi misteri italiani, quei misteri ancora irrisolti, e quei misteri ai quali io ho dedicato alcuni film. Io ho chiesto a De Mauro di ricostruire le due ultime giornate di vita di Mattei in Sicilia. Le persone che aveva incontrato, i dialoghi che aveva avuto con queste persone, dettagli che possono servire alla successiva stesura di una sceneggiatura. Il 18 settembre del 70 scompare Mauro De Mauro, il giornalista che indagava sul caso Mattei, e sembra che abbia scoperto qualcosa che scotta sulla morte di Mattei. Il 26 settembre su Panorama esce un articolo che indica che ci sono stati tre uomini a compiere il sabotaggio dell'aereo e si indica il nome del comandante della squadra, il capitano Grillo. Dopo poco Panorama segnala anche la fonte, il capo della squadra mobile di Palermo, Nino Mendolia. Ma resta ancora un interrogativo: si tratta di un sabotaggio o di un'esplosione? Così Raffaele Morini del Centro Studi Internazionali Enrico Mattei e Giovanni Trolli, ex dirigente SNAM, uno dei primi ad arrivare sul luogo dell'incidente. C'è le fotografie che si vedono, in cui si vedono i pezzi dell'aereo da un lato e dall'altro dei pioppi. Se ora, diciamo, se l'aereo si fosse schiantato in questo modo, oltre che abbattere i pioppi, come dicevo e ripeto, i pezzi non avrebbero potuto passare i pioppi e andare dall'altra parte. Invece c'erano dei diversi, si vedono nelle fotografie, da un lato e dall'altro, il che significa che l'aereo è esploso in aria. Esplodendo in aria ha disseminato tutti questi frammenti da un lato e dall'altro dei vari pioppi. Dove è caduto l'aereo, diciamo così, era il centro, sì. Era il centro, e poi c'era un raggio di 250 metri, uh-huh. Un raggio di 250 metri di superficie coperta, cioè interessata a questi pezzi. Quindi lo scoppio sembra escluso. E allora torniamo al sabotaggio e alle persone non identificate che quella sera erano all'aeroporto di Catania. Ne parla il giornalista Gianluigi Meliga. Di queste persone non si seppe più nulla. Quello che si seppe fu che il capitano Grillo dei Carabinieri non era mai stato in Sicilia e che era invece in una stazione del Piemonte. Ancora una pista incerta, dunque, fatta di voci, di smentite, di nomi veri applicati a persone false, di presenze accertate ma non identificate. Sentiamo il racconto di Michele Pantaleone, autore del libro Omertà di Stato. Io non ero intenzionato a seguire questa pista. Quando in una conversazione il questore Mordino mi ha fatto cenno a queste cose, per me è stato un incentivo, per me è stata la molla che mi ha spinto a... Ma che cosa le riferì esattamente i Mordini? Che non c'era servizio d'ordine entro l'aeroporto di Catania, che la manutenzione ordinaria era stata eseguita da quattro persone prelevate dalla stazione di Catania e che le quattro persone non erano più rintracciabili, erano scomparse. Per me è stata una finestra aperta su questa vicenda e da allora tuttora continuo. Io mi sono occupato di questo problema fino al punto che sono stato in Inghilterra. Perché? I quattro operai addetti alla manutenzione di Catania erano quattro portabagagli della stazione. Immediatamente dopo sono scomparsi da Catania. Sono stati in Inghilterra. In Inghilterra, a Coventry, hanno due di loro gestito un albergo, non sono in condizione se di dire in gestione per affitto o in proprietà, comunque sono stati in Inghilterra in condizione di gestire un albergo. quando io sono andato in albergo in Inghilterra, loro già erano poi andati via ed erano in Australia. Ma Pantaleone dice anche che in quei giorni a Catania c'era un altro personaggio inquietante, Carlos Marcelo, il cui vero nome è Calogero Minatori, siciliano, nato a Tunisi e di cui l'FBI ha una scheda chilometrica. È un collaboratore della CIA, è stato coinvolto nell'assassinio di Kennedy, è legato al boss di Cosa Nostra, Jack Halpern, e che è in affari con i petrolieri texani. Allora, che ci fa a Catania in quei giorni Carlos Marcelo? Recentemente, grazie a metodi di verifica più sofisticati, si è arrivati alla conclusione che l'aereo è stato fatto esplodere in volo. Professor Donato Firrao, consulente della Procura di Pavia nell'indagine sulla morte di Enrico Mattei. Professore, cosa è successo su quell'aereo? È scoppiata una bomba a bordo dell'aereo. Dunque, un sabotaggio? Un sabotaggio. Ma come avete avuto la certezza dello scoppio? Noi abbiamo esaminato i pochi pezzi che erano rimasti. Uno strumento si chiama indicatore triplo, che era rimasto come souvenir sulla scrivania di un impiegato dell'ENI, i frammenti dell'anello d'oro 18 carati di Enrico Mattei, alcuni frammenti metallici prelevati dai cadaveri mediante metodi di medicina legale. E su quegli elementi, su quei piccoli elementi avete costruito questa certezza? Sì, perché un'esplosione su questo tipo di metalli, l'indicatore triplo era fissato con delle viti di acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile e l'oro, se sottoposti a esplosione, danno dei segni microstrutturali inequivocabili che possono essere rilevati mediante indagine metallografica. Il 20 febbraio del 2003 il procuratore di Pavia, Vincenzo Calia, ha chiuso l'inchiesta sulla morte di Mattei, chiedendo l'archiviazione per quanto riguarda esecutori e mandanti, ma raggiungendo la certezza che l'aereo venne dolosamente abbattuto e che l'azione prevedeva il coinvolgimento di uomini presenti all'interno della società petrolifera e negli organi di sicurezza dello Stato. Quello che è certo è che da quel momento la situazione italiana all'interno del mondo dell'energia non è stata più la stessa.